E visto che appunto siete in Italia, in realtà nel nostro territorio è presente una multinazionale, la Bonatti di Parma, che ha un progetto anche nelle vostre terre e quindi interviene. Vi chiedo di raccontarlo. Viviamo una situazione di saccheggio, di privatizzazioni. Nella complessità il governo federale, il governo statale e il governo municipale, insieme alle imprese multinazionali, ci impongono i megaprogetti. Usano anche la delinquenza per intimidirci e imporci questi megaprogetti. Noi denunciamo queste imprese multinazionali, come per esempio l'impresa Bonatti, che è italiana. Saint-Gobain è della città di Parigi in Francia. Elengor è di Spagna. Edna Gas è spagnola. Abengoa spagnola. E anche Iberdrola, sempre spagnola. Queste imprese hanno strappato il tessuto sociale, dividendo villaggi, famiglie in generale. In questa maniera siamo molto preoccupati, perché sta succedendo lo stesso in tutti e 32 gli stati. Per questo noi invitiamo che si faccia coscienza, consapevolezza. Invitiamo collettivi, organizzazioni o in qualsiasi modo vogliono chiamarsi. Sì, perché queste imprese multinazionali, perché ci fanno capire molto chiaramente che violano gli accordi della UITET nell'articolo 169. Per questo che invitiamo chi ci sta ascoltando a descolonizzarci, a dispatriarcarci, perché quelli che comandano vogliono parlare di progresso, ma qui sotto, dove siamo noi, ci stanno distruggendo i popoli della terra. E in particolare appunto Bonatti ha un progetto che riguarda un gasdotto e la connessione con l'Italia è che è un'azienda che è implicata anche nella realizzazione della TAP in Sud Italia. Volevo fare ancora un'altra domanda a Eliezer riguardo invece il presidente López Obrador. Come valutate il suo operato politico anche nei confronti delle minoranze indigene? Este señor Andrés Manuel López Obrador. Questo signore Andrés López Obrador ci diceva che era di sinistra, e quando invece è arrivato al potere ci ha fatto vedere l'altra faccia, che è uno in più del fascismo. Ci dà veramente pena a pensare che abbia utilizzato il popolo messicano per salire al potere. Oggi questo signore è un pericolo per il Messico, perché sta rubando acqua e terra ai 32 stati del Messico, perché per noi questo è come un secondo presidente Madero che ha tradito il Messico. Madero che traiziona a Messico. Un'ultima domanda invece sul ruolo delle donne in queste lotte. Avete assimilato, come dire, il capitalismo al patriarcato, constatando un legame che viene constatato anche in Italia, quindi insomma c'è, come dire, anche una sorta di connessione, di analisi, no? Dei problemi del presente. Qual è il ruolo delle donne nella vostra lotta? Come donne seguiamo molto attentamente questo processo di lotta per la difesa della vita. Noi ci sentiamo molto importanti e determinanti in questo cammino. In generale in Messico, se avete visto le news, la lotta femminista ha avuto un ruolo molto importante, determinante, perché siamo in una guerra in Messico dove ci stanno uccidendo, non solamente come comunità indigene, se no ci stanno uccidendo proprio come donne, ci stanno facendo sparire, sono aumentati i femminicidi con questa guerra che dicono di fare contro il narcotraffico. Noi siamo l'oggetto di attacchi ai nostri corpi, attacchi che vengono diretti a noi donne e che vengono proprio da questo governo, no? Che si fa chiamare un governo di sinistra, poi invece non gli interessa assolutamente niente, non gli interessa la vita, e prende come se fosse uno scherzo tutto quello che sta succedendo in Messico. Dicono che non ci sono femminicidi, quelli del governo, che non ci sono morti, che non succede niente. Allora è come uno scherzo questo presidente, che poi lui gioca a sentirsi popolare. Dice che è il presidente degli indigeni, che dice che secondo lui gli daranno il bastone del comando, che gli indigeni l'hanno scelto e quindi il popolo messicano l'ha scelto. E la peggiore stupidaggine che ha detto è che lui ha chiesto permesso alla madre terra e che la madre terra gliel'ha dato. Sì, noi ci sentiamo come se fossimo uno scherzo per questo governo. Il nostro dolore, le nostre lotte sono solamente uno scherzo. I nostri morti, i nostri desaparecidos, quelli che mettono in carcere, una guerra contro la vita. Però siamo tanti e ci dobbiamo organizzare e stiamo provando veramente a farlo. Stiamo cercando di lottare come donne indigene, come uomini e come dissidenti. Noi continueremo sempre a lottare per la vita. Pues estamos luchando por la vida y que pues vamos a seguir luchando, ¿no? Allora io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio anche il TPO che ce li ha portati, ringrazio anche per la traduzione, buona continuazione di questo viaggio e buona lotta.